Giallo e nero di Daniele Biacchessi. 27 giugno 1980, cade di venerdì. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17.30. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria. Pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. L'orario di partenza previsto del 19 IH870 dell'Italia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. C'è chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free. Un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino. Luigi Andres è un medico dentista. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carni. Paola Bonati amministra la società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Alberto Bosco si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo, come Andrea Guarano. Maria Vincenza Calderone torna nella sua casa a Palermo. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Arnaldo Campanini è un esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini è avvocato. Accanto a lei c'è Guelfo Gherardi e molte altre persone. Sono nomi comuni, volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicino al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi, mestieri. Il 19 dell'Itavia IH870 è come un muro. Di chilometri ne deve avere fatti molti prima di quel giorno. L'aereo ha volato per tutto il giorno, ma gode comunque di buona salute. Quando comincia un volo? Dipende, è la risposta che l'attore Marco Paolini dà nel suo monologo sulla tragedia di Ustica. Il volo del 19 non inizia all'aeroporto di Bologna alle 20.08, con 113 minuti di ritardo sull'orario previsto del 27 giugno 1980. Prima di decollare per il suo ultimo viaggio, infatti, l'aereo Italia IH870 macina centinaia di chilometri su e giù per lo stivale. Il primo rullaggio inizia alle 8 del mattino, sulla pista dell'aeroporto di Lamezia Terme. Alle 8.54 atterra a Roma Ciampino, da dove riparte poco dopo per planare alle 10.50 nel capoluogo Felsino. La terza tappa lo riporta alla Lamezia Terme con un ritardo che alle 14.29 è già di 39 minuti. Il ritardo tocca quota 89 minuti quando il 19 atterra per l'ultima volta a Palermo. Sono le 16.59. Dopo un'ora, alle 17.57, lascia la Sicilia e alle 19.04 è di nuovo sulla pista di Bologna. Ha accumulato 94 minuti di ritardo totale, ma il 19, racconta Paolini, è un mulo che non teme i lavori pesanti. Anzi, di chilometri potrebbe tranquillamente percorrerne altrettanti. La sentenza priore ha accertato che l'ipotesi di cedimento strutturale, inizialmente riferita dall'aeronautica, non è altro che una pietosa bugia. Da principio i militari sostengono che la struttura dell'aereo, acquistato dalle linee hawaiane dove veniva utilizzato per il trasporto del pesce, sarebbe stata corrosa dal sale contenuto nel carico. Le perizie hanno invece stabilito che il 19, a parte una crinatura nel vetro dell'orologio del copilota, era perfettamente in ordine con le manutenzioni, le certificazioni, la navigabilità. L'aereo imbarca i passeggeri all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Borgo Panigale. È la sua ultima fatica. L'aereo è terra, poi diventerà aria e cielo. E per raccontare il viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini. ...20.08. Il volo 19 Italia decolla da Bologna con 113 minuti di ritardo. La torre di controllo gli ha già assegnato un numero di identificazione, IH870. Sale sull'aerovia Ambra 12. 20 e 26. Il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota comunica ancora con il radar del centro di controllo di Ciampino. Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh? Venti e quaranta, l'aereo giunge all'altezza di Roma. È spostato leggermente ad est, sull'incrocio tra l'Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautiche, il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona l'Ambra 14 e taglia verso il mare. Sorvola Pratica di Mare ed è sopra la lunga distesa di acqua. Mar Tirreno, 20 e 44. Neanche Ponza funziona? Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo da Firenze in giù, nemmeno un radiofaro funzionante. Eh beh, sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Mantenga 195. Venti e cinquanta. Il 19 è sull'isola di Ponza. La sorvola è in bocca all'aerovia Ambra 13, che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo, Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21:13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa. Punto Condor, sono le 20:59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore, la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla. La paralisi. Una frazione di secondo. Un attimo. C'è il meteo da Palermo. L'ultima voce che sentono. Calma di vento, temperatura 23 gradi. Molto bene. Quanto manca le 9? Scatola nera, ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti. Che scherzo, c'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice... Sporca, eh? Poi l'aereo prende un colpo. Tecnicamente si chiama collasso. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile... con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro con un petto della fiancata da cui entra l'aria provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto cove e una apriscatole si tronca. La parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro, la coda vola via per tutto scuoto, i timoni di coda, si spezza un frammento di ala e il resto... un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola. Il 19 sparisce dai radar, sepolto ad oltre 3.000 metri negli abissi del mare Tirreno. Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Air Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione. O un'esplosione in volo. Nei siti radar c'è agitazione. In questa registrazione inedita si può ascoltare la conversazione tra gli uomini della sala operativa di Licola in codice Barca e il centro di Marsala. Barca? Sì? Sapete voi per caso avete visto l'idiota 870? Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene? Ma non l'avete visto? Senti, Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio questa. E dove sta? Dove stava? Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana. C'è un'esercitazione? C'è un'esercitazione in giro? Americana? Alle 10.30, alle 10.00, la notizia è 18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, e ci siamo, Sto chiamando qualcuno della... sto chiamando lei la taxi a casa. Ma è così, si chiamano i colori. Può passare se voglio io direttamente. Avete avuto qualche contatto? Che... A Palermo stanno già in crisi, eh? Senta, telefonato adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Comunque mi ha fatto la domanda sensata, ma questo semplicemente avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sì, abbiamo semplicemente perso. Capita, esatto, l'unica cosa era riuscire a beccare di qualche che si deve lasciare la lira, da stare a parlare con qualche americano. E come? Questo io sto chiedendo loro. Io quindi sto telefonando. Ma tornare a fatto, e sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di Dicola, Barca. Dopo la viabilità e il racconto del giallo nero su Ustica. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. A distanza di 26 anni si conoscono molti retroscena dell'abbattimento del DC-9 IH-870 dell'Itavia, una verità racchiusa nella sentenza ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani, con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dal DC-9. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica e vertici dei servizi segreti sono stati assolti in via definitiva per i gravi depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo. Prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci e li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice, Ferri, non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del DC-9 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Che vuole questo? Come vi mettete? Come ci mettiamo? Col favore. Voi scrivete, scrivete, scrivete. Però nessuno di voi ha cercato di sapere chi c'era su quell'altro volo quella sera. Ma chi c'era? Andiamo lì, andiamo. Chi c'era su quell'altro volo? Lei lo sa. No, non lo so. Però so soltanto che io avevo un piano di volo che andava da Tripoli a Bassano. Da Tripoli? Sì. Era un aereo libico. Chi c'era sopra? Sì. Chi c'era sopra? Sua sorella c'era. Chi c'era sopra su quell'aereo? Chi c'era? Che dati? C'era che dati? Quello non c'era per che dati. Ma perché non va a fare? Tanto a pagare, siamo sempre noi. Lo dico, non contavo niente. Chi sta? Come me, come lui, come quel pezzo di cadavere. Certo, per voi è facile fare gli eroi con la penna in mano. Siete pagati per fare gli scandali. Per noi invece è diverso. Se noi parliamo, se cacciamo, ci cacciano via. E noi abbiamo famiglia. Ma chi c'era in quell'aereo? È una delle domande che si è posto per anni Andrea Purgatori, giornalista del Corriere della Sera. Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno. E risulta diversa l'analisi di Paolo Guzzanti, senatore di Forza Italia. La verità è che l'aereo di Ustica, come hanno confermato sia pure in modo criptico tutti i periti, in particolare il perito Taylor, che è il più grande esperto mondiale ed è quello che si è occupato del caso dell'aereo di Lockerbie. L'aereo di Ustica fu fatto saltare con un atto di terrorismo, quindi fu una strage deliberata. Fu fatto saltare con una bomba. C'è un fondatissimo sospetto che anche quell'attentato, come quello di Lockerbie e probabilmente quello successivo di Bologna, appartenessero ad un'unica strategia araba. L'atto di terrorismo si riferiva al fatto che l'Italia in quel momento prese il controllo dei banchi petroliferi di Malta, che fino a quel momento erano stati invece una egemonia della Libia. Non dimentichiamolo, quando la Libia ci mandò un missile che approdò poi dolcemente sulle sabbie, se non sbaglio, di Lampedusa. Il contesto era quello, era un contesto anche internazionale gravissimo, con una frattura profonda tra est e ovest, questo è il contesto più globale. Quello specifico è reperibile sulle carte ed è testimoniato appunto dal sottosegretario Zamberletti, che si trovava alla Valletta a Malta la mattina del 2 agosto mentre saltava la bomba di Bologna, che fu fatta esplodere con un esplosivo assolutamente identico a quello usato per far esplodere l'aereo di Ustica, come risulta in atti. ...26 anni dal giorno del disastro, un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza, disillusione. La senatrice Daria Bonfietti aveva un fratello sul D19, oggi presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime. Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica, questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio. 27 giugno 1980, poco dopo le 21. Italia 870, do you read? Terminano così le chiamate verso il 19. Quell'aereo sorvolava l'Italia in una giornata di sole. Portava persone che volevano soltanto vivere. In molti a Palermo li aspettavano, ma dall'aereo non sono mai scesi. 27 giugno 1980. Quel giorno la nostra coscienza nazionale è sprofondata negli abissi del Mar Tirreno. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.